Amen. Buonasera Chiesa. È stato un incontro fino a qui glorioso, amen? O lo è stato solo per me? Quando veniamo insieme, il Signore fa qualcosa di speciale, lo vedremo anche attraverso questo Salmo, il Salmo 92. Siamo arrivati al Salmo 92, non li abbiamo fatti tutti, però saltellando qui e lì, siamo arrivati al Salmo 92. Io prego che stasera la sua parola, che è descritta come quella spada a doppio taglio che separa l'anima dallo spirito, possa far questo per i nostri cuori questa sera, separare, dividere rettamente, c'è scritto, affinché possa portare ordine nelle nostre vite, nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, in quello che facciamo insieme, in quello che facciamo da soli, in quello che facciamo verso Dio e verso gli altri. Amen? Vi va? Ok, allora leggiamo il Salmo 92. Qui se c'è il cellulare, l'iPad, se ce l'hai una Bibbia fisica, allora aprila. Se non ce hai nulla di questo, è sullo schermo. Leggiamo insieme il Salmo 92 che dice questo: canto per il giorno del sabato. È buono celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira 10 corde e sulla cedra con la melodia dell'arpa, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, oh Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, oh Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce lo stolto, non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e che tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, oh Signore, siedi sempre, per sempre, in alto. Poiché ecco i tuoi nemici, oh Signore, ecco i tuoi nemici periranno, ma i malfattori saranno dispersi. Ma tu mi dai la forza del bufalo. Io sono cosparso d'olio fresco, i miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto invece fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non vi è ingiustizia in Lui. Amen. Amen. Questa è la parola di questa sera ed è magnifica. A dire il vero, a differenza di tutti gli altri salmi, di tutti i salmi che abbiamo visto fino ad oggi, questo è un salmo comunitario. Che significa? Ci sono quelli individuali e quelli comunitari. Quelli che abbiamo visto fino adesso erano quelli individuali, cioè il salmista, Davide o chi per lui scriveva la canzone, la poesia, la dedicava a Dio, la pregava a Dio in solitudine per se stesso. Alcuni salmi invece sono stati scritti e poi usati in maniera specifica per quando il popolo di Dio si riuniva insieme, proprio come noi abbiamo fatto questa sera. Siamo riuniti insieme, lo facciamo insieme, perché c'è un peso diverso quando lo facciamo insieme, c'è un'importanza diversa quando lo facciamo insieme. Non solo, questo salmo quindi è un salmo comunitario, il primo che guardiamo insieme comunitario, ma è un salmo, e il titolo dice questo: canto per il giorno del sabato. Il giorno del sabato sappiamo tutti che cos'era. Era quel giorno che il popolo di Dio metteva da parte, non faceva nulla, si riposava e si riposava in Dio. Quindi era un giorno dedicato a Dio, a lodarlo, a stare con Lui, ad andare al Tempio. Era un giorno messo da parte per Lui. E questo salmo era usato per il giorno del sabato. Per quello che facciamo noi oggi, era usato per quello che noi facciamo oggi, quando la comunità veniva insieme. Ora, solo dal titolo potrei predicare un messaggio. Vi va? Facciamo solo dal titolo, perché è bellissimo il messaggio. E il messaggio è questo, è quello che ci dice ancora a noi oggi e questa sera. e che non possiamo sottovalutare l'importanza di quello che facciamo quando veniamo insieme come Chiesa. Non possiamo screditare l'importanza di quello che è venire domenica dopo domenica e fare insieme quello che facciamo insieme, cioè lodare e magnificare il nostro Dio. È una cosa importante. Questo ci dice, solo il titolo ci dice che la nostra fede non può essere una fede individuale. Non può essere una fede individuale. Siamo chiamati a vivere la nostra fede in comunità, in famiglia. Non sottovalutare la cosa preziosa che hai di chi ti sta a fianco. Non sottovalutare la cosa preziosa che abbiamo nell'essere famiglia, nell'essere la Chiesa, nell'avere l'un l'altro e nel venire qui domenica dopo domenica, perché fa una cosa speciale, cambia e trasforma i nostri cuori questa cosa. Ora, il vivere Dio in maniera personale è importante, è fondamentale, ma altrettanto importante, altrettanto fondamentale è quello che facciamo insieme. Perché quando siamo insieme i pezzettini del suo corpo si riuniscono e il capo viene con la sua presenza e noi siamo arricchiti, maturati, siamo trasformati in maniera speciale. Solo il titolo diceva questo. Potrei continuare per un'altra retta, però c'è tutto il resto del Salmo. Però è così che inizia il Salmo ed è una cosa bellissima. Ma il Salmo dice, inizia dicendo questo, è buono celebrare, è buono cantare ed è buono proclamare chi Dio è, la sua fedeltà, la sua bontà e quello che Lui è per noi e quello che Lui ha fatto per noi è buono. È buono, dite ad alta voce, è buono. È buono il fatto che fino a 2 minuti fa con tutti noi stessi abbiamo lodato il nostro Dio. È buono, ed è buono almeno in 2 modi. È buono perché Dio ha creato ognuno di noi, tutto il suo creato, a dire il vero. C'è scritto nel Salmo 19 che tutto il suo creato riflette la sua gloria, magnifica chi Lui è, tutto il creato, incluso te e me. Per questo è buono. Quando noi adoriamo il Signore, quando lo lodiamo, quando proclamiamo la sua bontà e la sua fedeltà, ci riuniamo insieme al creato e glorifichiamo Dio. E il Signore guarda e dice, questo è buono. Proprio come nella creazione, proprio come durante i giorni, durante i 7 giorni, diceva, ogni volta che creava qualcosa, diceva, è buono. Quando noi lo adoriamo, quando noi lo lodiamo, quando noi lo ringraziamo, il Signore dice, è buono, ed è una cosa buona. E la seconda maniera nella quale è buono il fatto che noi celebriamo, che noi cantiamo e che noi proclamiamo chi Lui è per noi e che è buono per noi. Ci fa bene a noi, fa bene al nostro cuore, fa bene alla nostra anima, ci libera, ci guarisce, trasforma il nostro cuore. Guardate, quando veniamo insieme, molto spesso, forse sono l'unico qui, però molto spesso devo forzare me stesso, perché forse non mi viene naturale, o forse non mi viene naturale ogni domenica. Però domenica qui siamo come famiglia, ci stimoliamo l'un l'altro, da qui dal palco, lì giù fra le sedie, per fare una cosa, per adorare e magnificare il Signore. Che cosa fa questo? Questo trasforma i nostri cuori, li spinge in una direzione che forse da soli noi non la porteremo mai. Perché? Perché noi non andiamo lì. Noi siamo così, e no, è un po' scomodo, non voglio andare lì, invece quando veniamo insieme e ci spingiamo e sproniamo l'un l'altro a farlo, andiamo dove il nostro cuore non andrebbe mai, ed è lì che il nostro cuore è guarito, è cambiato, è trasformato, è curvato verso le cose di Dio. Il resto della settimana è curvato verso altre cose magari, ma la domenica, quando siamo insieme, il nostro cuore è curvato verso le cose di Dio. Per questo è buono, per questo ti fa bene e per questo mi fa bene. Questo è quello che il salmista dice nei primi 3 versetti. È buono, fatelo, facciamolo. Non mancare le domeniche, perché ogni domenica che manchi è una bontà che manchi al tuo cuore e al cuore di Dio. È una cosa buona che tu togli dal tuo cuore e dal cuore di Dio. Non mancarlo, perché fa bene a te e glorifica a Dio, ed è una cosa importante. Perché altro è buono? O perché è buono? E il verso 4 lo dice e lo sottolinea in maniera chiara. Il verso 4, c'è lì, dice: poiché, dato che tu mi hai rallegrato per quello che hai fatto, per le tue meraviglie, io canto a te, io ti ringrazio e ti lodo. Questo, a me piace chiamarlo il cerchio o la spirale di gloria e di ringraziamento, di adorazione e di ringraziamento che fa bene al nostro cuore. Quando noi andiamo a Dio e lo ringraziamo per chi Lui è, per quello che Lui ha fatto, Lui fa una cosa, ci porta gioia nel nostro cuore. Non è vero? Quando noi concentriamo il nostro sguardo su di Lui e non su tutto il resto, porta gioia al nostro cuore. E la gioia nel nostro cuore alimenta una cosa, cosa? Ringraziamento e lode. E continuiamo, lo facciamo di nuovo, e ringraziamo e lodiamo il Signore. E una volta che abbiamo lodato e ringraziato il Signore, che cosa scende nei nostri cuori? Gioia. E una volta che noi ci rendiamo conto che siamo felici, allegri, perché Lui è meraviglioso, perché Lui ha fatto cose meravigliose nella nostra vita, noi che cosa facciamo? Lodiamo e lo ringraziamo e ci ralleghiamo per chi Lui è. Vedete, è proprio quel ciclo vizioso o magnifico che avviene nella nostra vita ed è una cosa meravigliosa. È questo, il Salmo 92 ci spinge a fare più di un'altra cosa. Vero? Riesci a gioire? Riesci a gioire nella tua vita? Riesci a gioire di quello che Dio è per te? Della meravigliosa realtà che Lui è, delle meravigliose cose che Lui fa costantemente. Riesci? Ho sentito un più o meno. E io già vi ho confessato che a me mi riesce difficile questa cosa, vero? Ve lo ricordate? Oh, ve l'ho detto, con un altro salmo, un paio di salmi fa, ve l'ho detto. Che è una cosa che a me mi riesce un po' più difficile. Non è proprio... È importante ed è bello. È bello celebrare il Signore, per esempio, per il suo creato, per quello che è una cosa meravigliosa. Quando sei in un bosco, quando sei in campagna, quando sei al mare, e osservare le grandi cose come il mare, come le montagne, come le piccole cose, come gli insetti, i fiori, e lodarlo per quello che Lui ha fatto, è una cosa buona, perché meravigliose sono le cose che Lui ha fatto. Amen? E però io vivo a Modugno. Ora, Modugno è la città più bella del mondo perché è dove Dio mi vuole. È la città più bella del mondo perché è dove Dio mi vuole. E io la amo con tutto me stesso. Però di natura non ce ne sta tanta. Allora ho detto, Signore, e come fai? È difficile, non è facile. E lì ho sentito il Signore spingermi, proprio stimolarmi a farlo nelle piccole cose. È come se ho sentito il Signore, impara a farlo nelle piccole cose, perché lo puoi fare poi sempre. Perché se lo impari a fare solo quando sei nel bosco, quando sei al mare, e poi non lo puoi fare quotidianamente, perché non ogni giorno siamo al bosco o al mare, giusto? Almeno io no, no? E quindi ho imparato, mi sono sfidato a farlo nelle piccole cose. Sapete l'altra sera che cosa mi è successo? Un po' ridicola sta cosa, però credo che accade a tutti quanti noi, no? Sono andato a letto, e facciamo un po' freschetto. Questo è il fenomeno di casa mia che non capisco. Quando fuori inizia a far freddo, in casa fa ancora più freddo. Non so perché, però è un fenomeno strano. Allora mi sono messo sotto le coperte, faceva freddo, no? Allora che faccio? Metto la testa sotto le coperte. Perché? Perché il mio alito, il mio respiro riscalda, no? L'ho fatto solo io questa cosa, no? Allora, cioè, mi riscalda tutto e dici, e respiri più veloce, più forte per riscaldarti di più, per riscaldarti, no? Però poi dopo un po', che cosa succede? L'aria si consuma, no? E diventa più pesante, è difficile più respirare, no? Ti affanni perché l'ossigeno manca. Allora, in preda al panico, quasi che stai andando, no? Esci la testa dalle coperte, no? L'ho fatto solo io sta cosa? Ho uscito la coperta la testa dalle coperte e ho preso un profondo respiro e l'aria era fresca. Sai quando è fresca, fredda, no? Proprio fresca, bella, l'ho sentita scendere nei miei polmoni e lì, in quell'istante, ho detto, Signore, grazie. Grazie per l'aria, che è bella, è fresca. Grazie per il mio naso, anche se è grande, però mi aiuta a respirare. Grazie per la mia trachea, che non so neanche dov'è e cosa fa. Grazie per i miei bronchi, grazie per i miei polmoni, grazie per l'ossigeno che mi hai dato, perché porta vita a ogni mia cellula. Io ti lodo e ti ringrazio perché hai fatto l'aria, la cosa più banale di questo mondo per la quale noi dobbiamo e possiamo ringraziare il Signore. Vedete quanto meravigliose sono le sue opere per noi, dalla più grande alla più piccola cosa. Quando è stata l'ultima volta che hai ringraziato per la mela che hai mangiato? La mela, dici, vabbè, la mangio, basta. No, quando è stata l'ultima volta che hai ringraziato per la mela che hai mangiato, per l'ultima mela che hai mangiato, per i denti che il Signore ti ha dato per addentarla e masticarla? O per le gengive che sostengono la dentiera che ti permette di mangiare quella mela. Quando è stata l'ultima volta? Il Signore è degno di lode per tutto quello che ha creato, dal sole alle stelle che sono magnifiche, fino all'ossigeno che c'è nell'aria e noi diamo per così scontato che respiriamo ogni volta. Il Signore è degno di somma lode perché meravigliose sono le sue opere. E le sue opere vanno al di là di quello che lui ha creato. L'opera più grande è stato quando ha mandato suo figlio su questa terra a morire per te e per me. E il terzo giorno è risuscitato, e grazie al fatto che lui è risuscitato e ha sconfitto la morte, io... Si è rotto? No, non si è rotto, miracolo! Mi sono incespicato con le mani, dicevo, il fatto che lui è morto e risorto e ha sconfitto la morte per te e per me mi dà la potenza di vincere il peccato nella mia vita. Ogni giorno mi rende più santo, mi rende vivo, mi dà speranza che va al di là delle circostanze che io vivo. Se sei qui questa sera e tu credi all'opera di Cristo Gesù nella tua vita, o se sei qui questa sera e lo senti per la prima volta, non ha importanza, le sue opere sono meravigliose. E il fatto che lui ha sconfitto la morte una volta e per sempre è una cosa che noi saremo eternamente grati per il fatto che l'ha fatta. Perché lui è potente e meravigliose sono le sue opere. Lui ci ha salvato, ha sconfitto la morte e sconfigge la morte in noi ogni giorno. Lui è degno di somma lode. Amen? E questo il salmista sta dicendo. Le tue opere sono meravigliose e le tue opere hanno portato gioia nel mio cuore e per questo io canto a te di gioia, perché tu sei buono. Perché tu sei buono. E continua anche nel verso 5. Nel verso 5 il salmista ripete: come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. I pensieri del Signore sono profondissimi. Non ci sarà fine a conoscere i suoi pensieri. Sapete, l'eternità, quando saremo davanti a lui, sarà proprio questo. Sarà ogni giorno scoprire un'altra cosa di Dio, un altro pensiero di Dio. E appena faremo, Signore, meravigliosa questa cosa, io non sapevo questo di te, grazie perché lo hai fatto per me, sei meraviglioso. Appena finiremo qua, ce ne sarà un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora. E eternamente sarà così. E noi saremo eternamente sorpresi. E saremo eternamente soddisfatti e gioiosi. E non ci sarà da annoiarsi, perché Dio è così. Lui è immenso. Lui, le sue opere sono magnifiche. E profondi sono i suoi pensieri. Però il Salmo va avanti. E nel verso 6 conosciamo la persona che queste cose non le conosce, non le sa queste cose. Nel verso 6 c'è scritto: l'uomo insensato, lo stolto, lo stupido, diremo oggi, queste cose non le sa. Non le sa. È descritto come una bestia, diciamo, è una bestia. Questa persona è una bestia. Come gli animali, non ha il potere di pensare. Se sta morendo, non capisce perché muore, quindi non può reagire per salvarsi. L'animale è così, no? Non ha questo potere analitico che abbiamo noi. E questa persona è così, è stupido, non la capisce questa cosa, non capisce questo. Ora, che cosa non capisce? cosa questo sta per. Perché qui nel versetto 6 c'è scritto: l'uomo insensato non conosce, lo stolto non intende questo, due punti, che gli empi germogliano e che i malfattori fioriscono. Però ci sono altre traduzioni della Bibbia che lo mettono un tantino diverso, lo mettono così, iniziando dal versetto 5, dice: come sono grandi le tue opere, come sono profondi i tuoi pensieri, l'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, punto. Perché? Perché questo, scusate il gioco delle parole, nel verso 6 ha un doppio potere. E questo doppio potere è guardare indietro e guardare avanti. In altre parole, che cosa significa? Questo, cioè l'uomo insensato non capisce questo, cosa? Che Dio è questo e che i malfattori sono questo. Cioè guarda dietro e guarda in avanti. Guarda dietro e guarda in avanti. E quello che guarda indietro è che lo stolto non comprende che le sue opere sono meravigliose. E quello che viene dopo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già letto, che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono. Io amo la parola di Dio, la amo. Non so se negli ultimi anni è passata questa cosa, ma io la amo con tutto me stesso. Sapete perché? Perché non fa come lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia. Non dipinge un dipinto di rose e fiori e basta. La parola di Dio te lo dice e me lo dice. Guardate che i malfattori e gli empi fioriranno e germoglieranno. Saranno dappertutto, è come l'erba dei campi. Guardate che verranno e saranno dappertutto. Non siate sorpresi. Mi fa ricordare dell'erba del mio giardino. L'erba del mio giardino in estate, diciamo, è un deserto, no? Ci sono solo pietre e polvere. Anche perché ho 3 figli che sono come delle cavallette. Dovunque passano non sopravvive più nulla. Però poi alla prima pioggia, alla prima umidità, esce tutta st'erba. Che io non pensavo neanche potesse crescere in posti assurdi. Devo stare attento perché se la prossima settimana non la taglio, o questa settimana non la taglio, perderò i miei figli. Non li troverò più nell'erba che è diventata così alta. È così l'erba, no? Basta un po' di umidità e cresce dappertutto. Quanto attuale è la parola del Signore? Perché io la amo. I malfattori, gli empi, germogliano e fioriscono dappertutto. E forse non è diventato tanto reale quanto le ultime 2 settimane che abbiamo vissuto, vero? Chi avrebbe mai pensato che ci sarebbe arrivato così vicino, in Europa, qui da noi? Pensavamo, vabbè, stanno là, fanno le cose loro, fanno i casini loro. Io là ci sono stato e vi posso dire che sono come noi. Sono come noi. Sono assetati di qualcosa che l'uomo da se stesso non può trovare, non può ricevere. Quello è il Dio vero. E sono imbrogliati dalle menzogne. Da alcune menzogne, proprio come noi. Magari le nostre menzogne sono solo diverse, ma sono menzogne. E per questo fioriscono dappertutto. E lo stolto, lo stupido, non sa che questi germoglieranno e fioriranno dappertutto. Non lo sanno. E quindi sono spaventati, sono impauriti, sono assaliti da ansia, perché non se l'aspettano. Il popolo di Dio no. Il popolo di Dio no, perché noi abbiamo il Salmo 92, fratelli e sorelle. Abbiamo il Salmo 92 che ce lo dice e ci prepara. E ci dice che germoglieranno, fioriranno, saranno dappertutto come i fiori dei campi. Ma, fioriscono e germogliano per essere distrutti in eterno. Fioriscono e germogliano, sì, sicuramente fioriscono e germogliano, ma sono destinati a una distruzione eterna. Il popolo di Dio è destinato a gioire del proprio Dio, a lodarlo e magnificarlo per quello che Lui è in eterno. Gli empi, i malfattori, no, loro saranno distrutti in eterno. Al contrario, questo ci dà speranza. Questo ci dà la forza della quale noi abbiamo bisogno. Nel bel mezzo delle situazioni brutte, non ci scoraggiano, non ci colgono di sorpresa, Perché noi abbiamo il Salmo 92 e lo sappiamo. E stasera, quando usciamo da queste porte, dobbiamo uscire in maniera diversa. Dobbiamo riflettere della luce del Salmo 92. Dobbiamo riflettere della luce del Salmo 92 e portare speranza e dire sì, i malfattori ci sono e fioriranno e germoglieranno, forse ce ne verranno ancora di più e ci saranno ancora di più, ma io ho una speranza per te e io ho qualcosa da dirti. Loro germogliano e crescono ovunque, ma saranno distrutti in eterno. Forse non oggi, forse non domani, ma prima o poi saranno distrutti in eterno. Perché il mio Dio è giusto e presso di Lui non c'è ingiustizia, è così che finisce il Salmo. È così che finisce il Salmo. Questa è la nostra speranza, fratelli e sorelle. Questa è la nostra forza. Questa è la nostra forza. E questa è la forza che il Salmo 92 ci dà. Quando noi lo lodiamo insieme, quando lo ascoltiamo insieme, in questo momento, noi stiamo sentendo la parola del Signore proclamata. E questa proclamazione cambia i nostri cuori, li trasforma. Per questo quando noi usciamo abbiamo una forza e una speranza diversa, perché ce la dà la sua parola, perché la sua parola è gloriosa. E non finisce qui. Perché? Perché questo è l'uomo insensato, non conosce queste cose, non sa queste cose, non sa che è Dio, è un Dio glorioso e non sa che sì, certo, i malfattori fioriscono, ma saranno distrutti eternamente. Ma va avanti, perché poi il Salmo si rivolge al Dio dell'universo, al Dio eterno e al popolo che adora questo Dio. E dà due ma tu, due soluzioni, due forti ma tu che sono tuoi e sono miei. Il primo ma tu dice: ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto. Signore, tu siedi per sempre in alto, per sempre. Sapete quando Isaia, il profeta, aveva dei problemi? Forse anche molto come i nostri, geopolitici, era cambiato un re, c'erano dei malfattori anche lì, c'era confusione, non si capiva. Isaia era confuso, non sapeva quello che fare, come parlare, era impaurito forse, preso da ansia, ha fatto una cosa, è andato al Tempio. E nel Tempio c'è scritto, ha visto il Signore. E sapete come l'ha visto? Alto ed elevato. L'ha visto con angeli che coprivano la sua gloria e lo lodavano. Lo ha visto lì in tutto il suo splendore e Isaia lo ha glorificato per quello che era, lo ha ringraziato per quello che era e lo ha lodato per quello che era. Il tuo Dio, il mio Dio è più alto. Ma tu, Signore, sei più alto. Lo diciamo insieme. Ma tu, Signore, sei più alto. Io sono più alto di voi? No, scusate, in questo momento sono più alto di voi? Grazie, sì. No, non sono più alto di voi, forse sono più basso del 80% della Chiesa. Però in questo momento sono più alto di tutti quanti voi. E io ho molto più controllo di Antonio dalla prima all'ultima fila, proprio perché riesco a vedere le cose dall'alto? Vero? Il nostro Dio è più alto. Il nostro Dio vede le cose da una prospettiva eternamente diversa ed eternamente più alta. Lui sa quello che sta accadendo. Io forse sono confuso, io forse non so quello che sta succedendo, ma Lui sì. E quello che io sono chiamato a fare è: Signore, ma Tu sei più alto. Sì, io forse non capisco queste cose, forse pure mi spaventano e mi portano ansia, ma Signore, Tu sei più alto. Il secondo ma Tu che il salmista dice e ci guida e ci spinge a gridare è: ma tu mi dai la forza del bufalo. Perché tu sei alto e tu puoi fare ogni cosa, tu mi dai la forza del bufalo. Non è una cosa meravigliosa questa, un bufalo. Ve lo immaginate un bufalo? È una cosa gloriosa, forte, che dà, trasmette un senso di maestà. Li avete mai visti i bufali? Io l'ho visto uno dal vero, è proprio bello il bufalo. Però letteralmente qui il Salmo dice una cosa un tantino diversa. Dice, tu, questo è sempre nelle traduzioni, è difficile tradurre l'ebraico, però letteralmente c'è scritto che lui alza le corna del bufalo, o lui alza il capo del bufalo. Che cosa significa questo? Quando si alzava la testa del bufalo, si inneggiava, comunque si dava più potere e più gloria a questa bestia per quello che stava facendo. E il Signore dice la stessa cosa a te e a me. Io rialzo il tuo capo. Tu forse ti senti debole, tu forse non ti senti adeguato, tu forse ti senti smarrito, tu forse hai paura, ma io alzo il tuo capo. Io do più gloria a te di quella che ti meriti. Io ti do più forza. Io alzo il tuo capo. Questo è quello che il Signore fa per noi. E poi continua, perché se è vero che gli empi e i malfattori sono come l'erba, che oggi è così, vi assicuro che in estate non ci sarà più. Sarà bruciata, perché saranno tornate le cavallette, i miei 3 bambini. Per questo l'erba oggi c'è e domani non c'è più, sarà distrutta in eterno. Ma gli uomini e il popolo del Signore è descritto nel verso 12 come la palma e come il cedro del Libano. Sono due alberi maestosi. Sono due alberi forti, stabili. E quindi il Signore sta dicendo, in altre parole, io faccio di te una palma e un cedro. Che cosa significa? Io ti stabilisco per sempre. Io ti do forza al di là di tutti gli altri. Io faccio di te questa cosa gloriosa. Io faccio di te questa cosa gloriosa. E questo è quello che il Salmo ci spinge a confessare in fede. Questi due ma tu. E questo siamo chiamati a fare insieme, come Chiesa, fratelli e sorelle. Siamo chiamati insieme ad ascoltarlo e siamo chiamati insieme a confessarlo, a prescindere dalle nostre circostanze o proprio nelle circostanze più brutte. Siamo chiamati a confessare questi due, ma tu, Signore, sei più alto. Tu sei più alto, io forse non sono in controllo, io forse non capisco le cose, ma tu sei più alto. Io forse mi sento debole, io forse mi sento inadeguato, ma tu mi dai la forza del bufalo. Tu mi dai la forza del bufalo. Chi si vuole sentire come un bufalo questa sera? Chi ha bisogno della forza del bufalo? Io voglio la forza del bufalo. E la promessa del Signore è questa: io ti faccio forte come un bufalo. E non solo quando sei giovane. Questa cosa è bellissima nel versetto 14. C'è scritto: porteranno ancora frutto questi alberi, questi che io stabilirò, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Questo vale per i giovani e i diversamente giovani in mezzo a noi. Il Signore non ci chiama ad andare in pensione, ma rinnova le nostre forze di gloria in gloria. Sapete, secondo me non è l'eterna giovinezza di Dorian Gray, no? Che era sempre bello, e perché no, per questa cosa qua. Non è non avere rughe, non avere capelli bianchi, non è affaticarsi un po' magari fisicamente, ma è avere quel vigore che solo Dio sa dare. Secondo me è descritto benissimo degli ultimi giorni di Mosè. Mosè, sentite come viene descritto nella sua vecchiaia. È scritto così: la vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. Questo a 120 anni, questa è la tua promessa e questa è la mia promessa. Lui ti dà la forza del bufalo, lui ti stabilisce come un albero, a prescindere dalle situazioni e a prescindere se l'ingiusto fiorisce o meno. Lui ti dà la sua forza e te la darà fino alla vecchiaia. Per fare una cosa, e qui si chiude il Salmo, ha iniziato così e si chiude nello stesso modo, si chiude per annunciare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia presso di Lui. Lui è nostro Dio ed è meraviglioso, Lui ci rende forti come bufali perché Lui è alto, i Suoi nemici sono distrutti, per questo i nostri sono distrutti, affinché noi possiamo proclamare che Lui è la nostra rocca, che presso di Lui non c'è ingiustizia, che Lui è il nostro Dio e lo sarà per sempre. Amen? Ci alziamo in piedi. E io vorrei proprio che spendiamo un paio di minuti a riflettere su questo. Non so come sei entrato questa sera, con quali angosce, con quali ansie, con quali paure. Ma questo Salmo ci spinge ad andare oltre a quello che noi proviamo, a quello che noi tendenzialmente faremmo. Questo Salmo ci spinge a curvare i nostri sentimenti verso quelli che sono quelli di Dio, a curvarli verso quello che è il suo cuore e quello che lui ci dice. E questa sera lui ti ha parlato, io ne sono sicuro. Io prego affinché questa parola possa scendere nel tuo cuore e tu possa uscire in maniera diversa questa sera per te stesso, perché è buono per te e perché è buono per il Signore, per far risplendere la sua gloria fra quelli che ti sono intorno. Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu fai di noi una cosa nuova, Signore. E Padre, la preghiera più profonda del mio cuore, con tutte le mie forze, è che noi come Chiesa possiamo sempre di più imparare a cantare e a vivere questo salmo insieme, Signore, a proclamare le tue meraviglie, quello che tu fai di glorioso, Signore. Padre, che possiamo distogliere il nostro sguardo dalle menzogne del nemico, che vogliono fissarlo su determinate cose, Signore. Padre, io prego affinché possiamo fissare il nostro sguardo su di te, Padre, sulle tue verità e su chi tu sei per noi, Signore. E Padre, che possiamo capire la fine del malvagio è la nostra. Padre, che tu fai di noi dei bufali, che tu ci stabilisci in eterno. Padre, su questo vogliamo riflettere insieme come Chiesa e in silenzio adorarti e lodarti per quello che sei, per quello che hai fatto per noi, per i nostri cuori. Grazie, Signore. Grazie, Padre, grazie per il Salmo 92. Grazie perché è un tuo dono prezioso. Padre, io prego che possiamo vivere per esso.